Dalla conduzione in Bermuda e infradito fino a questa giornata British è stato un attimo, un battito di ciglio ed eccoci qua in questo pieno autunno anticipato. Fino a una settimana fa mi trovavi quasi in costume adamitico, adesso ho due felpe, ho il pantalone ovviamente lungo e calzature adeguate. Buongiorno Silvia, almeno la mia decenza adesso è più consona al format del Voltiamo Pagina. Buongiorno. Buongiorno Willy, buongiorno a tutte e a tutti. E infatti ho voluto trovare qualcosa di positivo, almeno dall'aspetto visivo, per questo maltempo. Beh, di positivo c'è anche la realtà letteraria che andremo a presentare. Abbiamo avuto un incipit su uno scrittore ungherese, ne troverete un altro nella parte da me curata per la presentazione dei volumi al Voltiamo Pagina, ricordando il 333-180-9494 per arricchire le vostre biblioteche attraverso i quiz da noi portati con libri a colazione per il Breakfast Club. Allora Silvia, si avvicina anche un appuntamento alla Ubic con un sorriso. Siamo contenti in effetti di questo, ve ne parleremo nei last minute letterari. Allora invece qui, per quanto riguarda la playlist musicale, già pronti i brani per dare intervallo alle nostre parole. Il buongiorno che arriva da Luigi, buongiorno a te caro Luigi. Iniziamo ricordando che abbiamo il libro sorpresa quest'oggi che ha un valore aggiunto, la dedica che farà Silvia sull'incarto per ricordare, dare un'importanza al premio che avrete. Però il libro che dà il via alla playlist letteraria è un altro, questo lo sottolineiamo. A te la parola cara Silvia. Allora, oggi ho portato, come vedi, un libricino. Sì, vedo, piccolo, così, un tascabile. Un tascabile, se hai una tasca molto grande. Dunque, si tratta della biografia della moglie di Robert Louis Stevenson, Fanny Stevenson, scritta da Alexandra Lapierre. Il titolo appunto è Fanny Stevenson, tra passione e libertà, edizioni E.O., ed è un libro che mi ha molto incuriosito. Quando ho visto che usciva un libro su Fanny Stevenson, ho pensato devo procurarmelo subito, perché è un personaggio che mi ha sempre affascinato, in quanto quando tu studi le storie letterarie ti dicono semplicemente che a un certo punto, verso i 27-28 anni, non so, Stevenson si sposa con una donna di 11 anni, che viene definita così, una donna di 11 anni più vecchia di lui, divorziata con due figli. Basta. Oppure... è già un identikit per l'epoca. Appunto. Le storie letterarie più antiche o più malevole dicono un'avventuriera. Ecco, allora, io... siccome sono sempre stata così attratta anche dalla figura di Stevenson, è chiaro che ne volevo sapere di più su questa persona e mi sono procurata il libro. Quando mi è arrivato sono rimasta allucinata, perché sono 720 pagine. L'ho messo da parte e ho detto questo non lo leggerò mai probabilmente. Tra un'avventura e l'altra la moglie di Stevenson ha scritto anche. No, lei non ha scritto, questa è la biografia, l'ha scritta questa biografa che si chiama Alexandra Lapierre. Ah ok, pensavo fosse la moglie no, di Stevenson. Lei è una biografia sulla moglie di Stevenson. L'ho messa da parte, ho detto non lo leggerò mai probabilmente. C'è stato un momento in cui addirittura ero quasi tentata di metterlo come libro a sorpresa. proprio non. Poi quest'estate l'ho preso in mano e non l'ho più mollato. E l'ho letto tutto dall'inizio alla fine, me lo sono goduta, addirittura in montagna me lo mettevo nello zaino, così portandomi un chilo e mezzo di roba, forse due, perché veramente è un libro molto molto molto avvincente, scritto benissimo, perché narra di una vita assolutamente avvincente, che meriterebbe non dico un film ma una serie. Dunque, la signora Stevenson, tra l'altro, poverina, non era un'avventuriera, ma era una che ha avuto una vita assolutamente avventurosa, che è una cosa, che è una cosa un po' diversa. Una signora, una ragazza che viene da una certa buona borghesia, diciamo, dell'America del Sud, e si sposa con un giovane avvocato di belle speranze, il quale però è un pochino mattoide, lui sì, cioè è un pochino strambo, e a un certo punto lui sente dire che in California ci sono dei giacimenti di oro, che si può trovare l'oro, si può trovare ricchissimi. Lui parte, lascia la moglie a casa con la figlia piccola e se ne va in California. Dopo qualche tempo dice alla moglie che può raggiungerlo, ma raggiungerlo non c'erano, stiamo parlando della prima metà della metà dell'Ottocento, quindi non è che c'erano dei jet o era raggiungere. Non è dietro l'angolo. No, non è dietro l'angolo. È un viaggio massacrante che dura mesi e che viene fatto in condizioni assolutamente precarie in diversi momenti, perché c'è la traversata, ma poi ci sono anche percorsi da fare in treno, treni che arrivano, che partono una volta alla settimana o anche più, ci sono malattie che si prendono lungo il tragitto perché chiaramente si va incontro a posti non bonificati e quant'altro. Insomma, al termine di un viaggio assolutamente massacrante, questa donna arriva con la sua bambina, arriva in questo posto sperdutissimo dove ci stanno i minatori che cercano l'oro, il marito che in qualche modo è una specie di ingegnere, non è un ingegnere, però è uno che coordina un po' le cose e che è convinto insieme a un suo socio che farà un sacco di soldi che non farà mai. E in questo paesino sperduto ci sono in tutto 14 donne. Eh sì, perché è una cosa molto strana che una donna decida di. Quindi quando lei arriva viene vista come una rarità. E lei è attaccatissima a questo marito, innamoratissima, eccetera, se non che ha un altro bambino e quando a un certo punto, dopo anni, la sua famiglia, lei è molto giovane devo dire, la sua famiglia la reclama, dice ma perché non vieni a trovarci eccetera, lei parte per tornare a casa cercando di fare un viaggio un po' meno turbinoso del precedente, però succede che quando arriva alla dove dovrebbe imbarcarsi c'è, scoppia una sommossa, è un periodo molto difficile, sai, c'è la guerra civile, turbolento, le consigliano tutti di rientrare. Per cui lei ha fatto tanto per arrivare lì e adesso torna indietro e cosa trova quando torna indietro? Che casa sua è completamente vuota. Perché il marito nel frattempo, mi scappa da ridere a dirlo ma è tremendo, il marito nel frattempo ha, diciamo così, prestato, tra virgolette, tutti i mobili, tutto l'arredamento di casa a una sua amante che aveva messo su una pensione ma non le arrivavano mai i mobili dal nord. E quindi lei non sapeva come fare a ospitare i pensionanti e lui diceva non c'è problema, mia moglie tanto sta via dei mesi, prendi pure i mobili di casa mia. Neanche a un amico, all'amante. Sì, all'amante. E così questa donna, la futura moglie di Stevenson, viene a scoprire appunto che cosa che già sospettava peraltro, che il marito ha un sacco di amanti, di avventure e che la tradisce allegramente. Il matrimonio va avanti in maniera, così puoi immaginare, molto compromessa, fin tanto che lei chiaramente non ne può più, diciamo, e allora siccome un divorzio al tempo era inammissibile e poi lei era veramente innamorata di quest'uomo, lei dice io c'ho ho delle predisposizioni artistiche, frequentava delle scuole d'arte, di disegno, così, voglio andare a studiare pittura in Europa. Oh. E lui acconsente, così magari... Dopo tutto quello che ha combinato ci mancherebbe. Poi anche, magari anche più libero, no? Tanto più che lei se ne va portandosi dietro i due bambini. Quindi... altro viaggione per arrivare a Bruxelles, dove l'avevano parlato di una importante accademia d'arte. Quando arriva lì scopre che questa accademia è aperta solo agli uomini. Ecco, un'altra sventura dell'avventuriera, per modo di dire. Per cui passa a Parigi dove c'è una scuola d'arte frequentata prevalentemente da signore. Naturalmente quando arriva a Parigi il tempo è inclemente Nel frattempo lei aveva avuto un terzo bambino, quindi lei è partita con tre bambini. Il tempo è inclemente, c'è tutta una serie di situazioni allucinanti che portano poi alla morte del bambino più piccolo, per grave, come si dice, assideramento quasi. Come abbiamo detto, le condizioni di viaggio erano veramente precarie. Il problema è che lì, quando arriva a Parigi, fa un freddo cane, non ci sono tanti mezzi per riscaldarsi, il bambino già è un bambino debolino, indebolito dal viaggio, eccetera. È chiaro che non ce la fa. E anche per gli altri bambini le viene consigliato di trasferirsi almeno per l'estate in campagna, dove c'è l'aria migliore. Ed è poi qui in campagna che le viene consigliata una pensione, che è il centro, ma lei non lo sapeva quando glielo consigliano, il centro, il luogo di ritrovo di un gruppo di artisti, pittori, scrittori, eccetera. O almeno il fato in questo caso è stato benevolo. All'inizio loro non la possono vedere. Ah, meno male. Perché dicono, ma come? Che ci fa questa donna qua in mezzo a noi, questa signora con dei bambini per di più, ma che roba è? Poi poco alla volta, in qualche modo, c'è un avvicinamento e finalmente tra questi arriva questo giovane, Robert Louis Stevenson, un ragazzo sui 24-25 anni, insomma, giovane, che ha delle velleità di scrittura, che fino a quel momento non ha pubblicato niente di importante, ma scrive per diversi giornali. Tra i due si crea subito una simpatia che poi sfocia anche in un sentimento, se non che il marito la reclama. La reclama a casa, smette di già glieli mandava saltuariamente, diciamo, i soldi per mantenersi. A un certo punto le dà un out, io non ti do più niente. O ritorni, oppure arrangiati. E lei quindi torna a casa, naturalmente straziante addio con questo giovane pseudo scrittore. Scozzese, e insomma, com'è come non è, questo è quello che ti raccontano tutte le storie letterarie. Passano un anno senza vedersi, soltanto scrivendosi, poi a un certo punto lui decide: io non posso vivere senza questa donna. E quindi vado. E vado. E fa un viaggio che, al confronto, quelli che faceva lei erano scampagnate, un viaggio tremendo, perché poi non aveva non voleva i genitori, lui era figlio di una ricca famiglia, però i genitori, il padre, quando sente che cosa vuol fare, praticamente, non dico che lo disereda, cioè gli dice: tu sei matto, fuori, fai quello che ti fare, ma io non ti aiuto. E lui va con le navi dei migranti, quindi nelle stive, lui che soffre di tisi, per cui una situazione allucinante, parte del viaggio ad orso di mulo, vabbè, cose assurde, peripezie varie. Arriva in condizioni disperate, assolutamente disperate. Lei se lo vede arrivare a casa che sembra che tiri gli ultimi, diciamo, e tutto quello che fa è aiutarlo a tirarsi su, a riprendersi, eccetera. E poi non ti sto a raccontare tutto, certo, sono, no, però sono... mi stavo appassionando strano caso del Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Stevenson probabilmente ha avuto modo anche di ispirarsi a ci questa... si appassiona molto, perché poi naturalmente puoi immaginarti tutta la reazione del marito, che si vede arrivare questo tizio che sta male, la moglie che diventa l'infermiera di questo ospite, diciamo, poi la decisione di chiedere un divorzio a quei tempi era una cosa che diventavi veramente un outsider, soprattutto sì, una donna, il marito che vorrebbe tenersi lui i bambini, quindi la lotta per i bambini, eccetera eccetera, e poi finalmente il matrimonio con tutto quello che ne consegue, perché loro tornano in Inghilterra, anzi in Scozia, ma il clima è tremendo, lui sta sempre male, ha continuamente delle crisi, degli attacchi, lei praticamente fa l'infermiera per tutto il tempo. Problemi con la figlia, con il figlio neanche tanto, ma con la figlia che è già grandina, che ha dei 18-20 anni, eccetera. problemi con la famiglia d'origine, che però quando lui presenta questa donna al padre, il padre burbero, così stranamente si ammorbidisce, è sorpreso, cioè c'è un episodio molto bello. Lei viene invitata a una cena ufficiale a casa sua, dove la presentano a tutte, sono già sposati, la presentano a tutta la famiglia, la parentela, eccetera, un sacco di notabili così, e mentre porta una portata, una zuppiera, una cameriera giovane appena assunta fa cadere un bicchiere, rompe un bicchiere, un piatto, ora non ricordo, e il padre di Stevenson la sgrida malamente, gliene dice tutti i colori, dice: tu adesso basta, non fai niente di fatto bene, da quando sei qua prendi, vattene, ti licenzio davanti a tutti. La signora Fanny si alza in piedi e dice: io non resto un momento di più a tavola con qualcuno che tratta così male la servitù. Ecco, brava! Okay, il padre resta così colpito che dice: questa è una donna di carattere, va bene per mio figlio. E da quel momento la riabilita, sì. E vabbè, basta. Ci fermiamo un attimo, anche perché sei stata molto precisa e appassionata in questa spiegazione. Ci fa piacere, ovviamente, mi fa piacere, perché sono già andato avanti nella lettura, sono 700 pagine, posso iniziare da pagina 500, quindi. No, scherzo, ce n'è ancora, scherzo, ce n'è ancora, scherzo, sarai anzi, giusto a pagina 400 se va bene. No, ma stavo forse scherzando. 350. Ovviamente per me, poi, che la bellezza della scrittura che mi colpisce principalmente in un libro, figurati se mi perdo tutto quello che hai narrato finora, che, come ho detto, è molto coinvolgente. Però abbiamo anche una playlist ed è giusto far ascoltare un po' di la musica. Playlist è tutta scozzese, e abbiamo in Donovan, omaggio infatti a Stevenson, sono tutti autori scozzesi. Donovan. Like a star in my vast sleep, I opened my eyes to take a peek, to find that I was by the sea, gazing with tranquility. Just then, when the hurdy-gurdy man came singing songs of love, then when the hurdy-gurdy man came singing songs of love. Histories of ages past, unenlightened shadows cast down through all eternity, the crying of humanity. Tis then when the hurdy-gurdy man comes singing songs of love, then when the hurdy-gurdy man comes singing songs of love. a roly-poly man is singing songs of love. Brano di Donovan, Hardy Guardy Man, l'uomo dell'organetto, tradotto, mi ha appena detto Silvia com'è la traduzione letterale, non elettorale, di questo brano, però sai, è facile andare in confusione visto il periodo. E per quanto riguarda invece il voltiamo pagina, con questa prima presentazione che ricordo di produzione E.O., casa editrice che dà sguardo importante con queste due congiunzioni che portano nel nome della casa editrice stessa. È una biografia, allora, precisiamo intanto sì, alcuni dettagli fondamentali. È una biografia. È una biografia, diciamo il titolo e l'autrice o l'autore. Autrice Alexandra Lapierre, titolo Fanny Stevenson tra passione e libertà. Aggiungerei un'altra cosa, il traduttore è Sergio Azzeni, sì, che è uno dei più grandi scrittori sardi, purtroppo scomparso già parecchio tempo fa. Quindi questo vuol dire che questo è un libro che è stato tradotto probabilmente diverso tempo fa e che poi non lo so quale sia la sua storia editoriale. È uscito però quest'anno, poco prima dell'estate, in Italia, dalla EO. Un'ultima cosa che volevo, due cose velocissime che volevo dire, ci siamo soffermati molto su questa prima parte e perché è talmente pieno di peripezie questa storia che ti viene spontaneo raccontarla così, è tutto vero fra l'altro. È un libro documentatissimo, ci sono lettere, della figlia, lettere sue, note di Stevenson. L'autrice ha lavorato 5 anni per metterlo in piedi, quindi non si è inventata niente. Ricordiamo che poi nella seconda parte avremo la nascita del grande scrittore, perché sì, chiaramente lui era un... aveva in sé lo scrittore, però bisogna dire che lei è quella che glielo tira fuori. Quindi una parte importante anche sì, per quanto riguarda la vita. Lui scrive L'isola del tesoro per divertire il figlio di lei, al quale è affezionatissimo. Ma a lei non piace, dice, questa è una roba per bambini. È Robetta, pensa un po'. Che però ha un successo strepitoso. Questo gli permette poi di affrontare tutta una serie di altri viaggi, perché sono sempre in giro, sempre per cercare di curare la sua malattia e la malattia di lui. Lui diventa in poco tempo uno scrittore squattrinato e malato, diventa una sorta di rock star della letteratura, con tutti gli annessi e connessi, no? C'è chi dice che è troppo facile, che mira un pubblico troppo semplice, c'è chi invece dice no, questo è un grandissimo stilista, sta di fatto però che vende a palate in tutto il mondo. Con pro e contro, quindi, nella critica. Per esempio, tu citavi prima Jekyll e Hyde. Ecco, lo strano caso del dottor Jekyll e di Mr. Hyde, lui l'aveva scritto in un certo modo, nel quale non c'era lo sdoppiamento. Ah. Ed è stata lei che gli ha suggerito di cambiarlo quando l'ha letto e di inserire Hyde all'interno di Jekyll. Quindi lui non faceva nessuna cosa senza che lei la leggesse. Praticamente lei era il suo primo editor. Importante e non poco anche. Pensa che dalla tua presentazione ne sono rimasto così attento che mi ha poi rivelato in una distrazione di autrice o autore, perché per me quello era già passato oltre. Per me la protagonista era la moglie di Stevenson. Ah, ma sì, è la moglie di Stevenson. No, infatti mi sono concentrato su questa figura. No, particolarmente affascinante da dimenticare l'autrice, che tu già conoscevi? No, ok. Cioè dici l'autrice del libro? Sì. No, io non la conoscevo, però mi hanno detto che è una grande scrittrice specializzata in biografie, che scrive solo biografie. Ed è una bella ricerca quella che ha fatto sul personaggio di cui abbiamo dato un identikit iniziale, perché c'è tanto di più in questo lavoro. Sì, perché poi alla fine, diciamo solo questo, naturalmente c'è tutta l'ultima parte, è quella nelle isole dei mari del sud, sì, dove Stevenson diventa il Tusitala, cioè il raccontatore di storie degli indigeni. E lei, in come ha sempre fatto, che una che lavorava un sacco, sapeva fare di tutto, lei bonifica queste terre, praticamente in pochi mesi mette su questo palazzo magnifico dove vanno a vivere, coltiva piante impensabili per quei posti, cioè una persona veramente instancabile. Instancabile. Per quello poi che hanno avuto anche una delicatezza fisica che ha portato patologie, perché a forza di spostarsi, essere sottoposti alle intemperie, la preoccupazione, un lavoro, certo, no, lei appassionato, non, lei mica tanto, lei è andata, lei è forte, lei è andata avanti. Lui poverino è morto poco dopo i 40 anni, insomma. Infatti, ma perché appunto aveva questi problemi ai polmonari che ha sempre avuto prima, sofferto. Anche prima che lei lo conoscesse, lui è nato così. No, lei è andata avanti ancora, è morta sui 78, adesso non mi ricordo, 65, sì, però, 78, e ha fatto in tempo, lo dico tanto non è uno spoiler perché il libro comincia da qui, ha fatto in tempo a sposarsi con un altro giovane che aveva qualcosa come 40 anni meno di lei. Ecco, vedi, poi di certo una figura con una grandissima vitalità, ne dà presentazione. E possiamo ripetere il nome dell'autrice? Alexandra Lapierre. Ok, non abbiamo questo libro in palio, ne abbiamo uno segreto che indubbiamente è di grande qualità. Anzi, se avete qualche recensione sui libri a sorpresa portati da Silvia, al 333-180-9494 ci fate gran cosa gradita. Sono le 8:29 minuti e non ho ancora salutato Stefano, il nostro notaio. Ciao Stefano, eccolo qui, oggi un po' silenzioso, ma tra poco... No, perché magari... normalmente parla tanto. No, magari nei fuori onda è un pochettino, se vogliamo, più vivace, però ne ha ben d'onde perché non abbiamo ancora portato il quiz. Allora, il quiz, a te la parola, Silvia. Sì, il quiz, dunque, si parlava del dottor Jekyll e di Mr. Hyde negli anni 60, direi nella seconda metà probabilmente, se ricordo bene, comunque intorno alla metà o seconda metà degli anni 60 ci fu una versione televisiva italiana del dottor Jekyll e Mr. Hyde in abiti moderni, fatta a puntate da un attore e in quel caso lì anche regista che al tempo era molto famoso. Io voglio il nome di questo attore che impersonava Jekyll e Hyde in questa versione moderna della Rai, metà anni 60, diciamo. Italiano? Italianissimo, sì. Ok, perfetto. Quindi il quiz è molto chiaro. Aspettiamo le vostre risposte al 333-180-9494. E intanto musica con The Water Boys, se non leggo male dal titolo This is the Sea, il nome di tutta questa raccolta, di tutto l'album. E ascoltiamo il brano... Trumpets. Trumpets. Ok, buon ascolto, a tra poco. Chi era l'attore che a metà anni 60, primi anni 70... Erano gli anni 60. Ah, 60? 60. Okay, però sì, andiamo indietro di un bel po'. Andiamo indietro, sì, parecchio. A tra poco. dust on the wooden steps, stoned by the trees, lost days and faded names, pain in my throat, no river stays the same. Laughing eyes, walk through the fields, sunshine and butterflies, a fragile place, nothing ever stays for long. Stiltskin, il gruppo che ci accompagna in diretta alle 8:38 minuti, sempre selezionato da Silvia Albertazzi, selezionato da Silvia in collaborazione con Stefano, quindi la presenza c'è, e come? Sì, sì. Iniziamo dalle risposte sbagliate ricordando il quiz. Siamo negli anni 60, la televisione ha riproposto sulla sceneggiatura di Dr. Jekyll e Mr. Hyde uno sceneggiato televisivo. Iniziamo dalle risposte sbagliate. Vittorio De Sica. No, no, l'attore no. principale, che era anche regista, hai detto, sì, per quanto sì. riguarda questa produzione. Procediamo invece con altra piattaforma. Risposta esatta da Maria Carla, sto andando in ordine cronologico, ma non è la prima, però la risposta esatta è Giorgio Albertazzi. Intanto confermi questa risposta. Confermo. Esatta. Luigi dice molto sinceramente non mi ricordo, ma faceva molto paura nella sua trasformazione. È vero. Brividi. Dino dalla Bolognina, Giorgio Albertazzi, bravo Dino, non sei arrivato, sei sul podio ma non primo in questo caso. Volevi aggiungere? No, volevo aggiungere che la trasformazione faceva molto paura, ma in se stessa era molto semplice, perché consisteva soltanto in occhi, degli occhi fosforescenti. Beh, mica male, cioè, appunto. Beh, già quello, capisco Luigi. E poi un improbabile risposta da Yuri, però apprezzo molto la fantasia, Walter Chiari. No, non era Walter Chiari. Se fosse Chiari, stato comico, forse. Forse una parodia, poteva farla, ma in questo caso no, è Giorgio Albertazzi. Quindi è il momento della vincitrice, che è Paola. Grazie Paola, Giorgio Albertazzi, hai risposto subito. Tra l'altro bella l'idea dello scambio che vogliamo approfondire con il Book Crossing Voltiamo Pagina tra i vincitori della rubrica letteraria di Radio Città Fugico al Breakfast Club. Sì, è Giorgio Albertazzi, hai risposto subito. Risposta esatta. Il libro premio è a sorpresa, è per te da libreria Ubik. Pensa che a me faceva paura la trasformazione da ciocco di legno in bambino di Pinocchio. Se vedevo questo impazzivo definitivamente, insomma. Sì, era veramente, era molto inquietante. È fatto bene anche per l'epoca. Sì, allora. Sì, sì, sì, ma guarda, si può vedere su YouTube, credo ci sia tutto. Spaventatevi. Le 8:41 minuti, procedo con la mia presentazione. È un autore, come ho detto, dall'incipit di Silvia Pioggia, la Sissa, che ha portato un altro autore ungherese, che è Arthur Koestler con Buio a mezzogiorno. Io vi porto un'altra narrazione, un villato questo, quindi non so se può piacere, ma le caratteristiche per piacere a me ci sono tutte. Pellegrino? No. Decina, no, Pellegrino? No, no, perché magari lo metto come libro più bello da prima ristampa. È un libro del 1928. Ecco, in questo caso sì, se vogliamo fare questa sezione, sì. Sándor Márai, probabilmente lo conosci, è un autore che ha passato tutti i regimi possibili, dall'imperialismo dall'impero asburgico fino ad arrivare all'invasione nazista nella seconda guerra mondiale. Lui antifascista da subito si è dichiarato in tal modo, è molto impegnato, però vive anche quello che è il regime sovietico in seguito, quindi ne ha viste diverse per quanto riguarda i cambiamenti della società. Resta un importante studioso del grande, grandissimo Kafka, e si nota anche nel lavoro Baby, il primo amore. Non è una storia d'amore, anche se ovviamente nel sotteso c'è sempre. È la storia di un uomo, è la storia di un insegnante che intraprende dopo 28 anni un viaggio. È un insegnante molto solo, è un insegnante che praticamente della sua vita fa unicamente l'introspezione, la solitudine e quello che può essere non una timidezza, proprio una riservatezza. E quindi c'è un identikit di questo personaggio continuo in ogni pagina che interroga continuamente il lettore e lo mette, viene spontaneo voler far compagnia a questa figura, viene spontaneo, ma come, non hai amici, non hai mai avuto una fidanzata, sei un insegnante solo che anche a scuola si mantiene sempre così dimesso nel confronto con i colleghi, nel confronto con i colleghi più giovani che lui chiama i vitellini, nel confronto con gli allievi che trovi assolutamente distaccati, una presenza che a un certo punto diventa a sua volta in dialogo con se stesso in una continuità che è assolutamente dettagliata di un vuoto che diventa pieno, pienissimo di emozioni. È un libro che, edito da Adelphi, intanto non è un tomo, è la logistica del libro, sono 250 pagine. Io non credevo di appassionarmi, anch'io l'ho letto al termine dello stacco estivo e non sono riuscito a fermarmi per portare queste parole così misurate, ma allo stesso tempo così piene di contenuti che mi hanno dato non solo motivo di emozione, ma anche motivo di dialogo con il protagonista. Ma come? Non hai una fidanzata, ogni tanto vai in una casa di tolleranza, l'unica storia che non era una storia d'amore ma di amicizia, hai portato un mazzo di fiori alla famiglia perché ti invitavano sempre a cena e non sei riuscito nemmeno a spiccicare una parola con l'ipotetica fidanzata che era innamorata di te, i genitori delusissimi e anche lui deluso di se stesso perché non è riuscito a spiccicare una parola che non fossero i consueti convenevoli durante questa cena. La descrizione di questa cena è veramente molto particolare e si ritrova a un certo punto dopo 28 anni a intraprendere questo viaggio, un viaggio che è anche un cambiamento per lui, è una vacanza che lui si concede, dove conoscerà una persona, un uomo che non è esattamente quello che viene definito uno stalker, ma è, diciamo, un grillo parlante a questa sua situazione di solitudine voluta, una solitudine che lui si autoinduce. E sta antipatico perché lo porta a considerare aspetti della sua quotidianità che dovrebbe combattere costantemente. Per cui è interessante questa figura che non è di secondo piano, ma è molto presente all'interno della scrittura di Baby, il primo amore di Sándor Márai. C'è una parte che volevo portare alla vostra attenzione come lettura dove si parla del metter su famiglia. Dice: ma che brutto termine che è metter su famiglia. Nel diario ritrovo tracce di alcuni vaghi progetti giovanili che rileggo con un certo disagio. In una pagina uso l'espressione metter su famiglia. Mi ha dato un tale fastidio, so che è ridicolo, ma credo proprio di essere arrossito quando l'ho letta. Beh, nella misura in cui sono capace di arrossire, dentro di me ho sentito una specie di umiliazione. Innanzitutto, l'espressione in sé ha qualcosa di indecente. Sono convinto che sia un'espressione convenzionale e ipocrita, suona artificiosa, non rispetta fedelmente il concetto. Una famiglia non si può mettere su, si può mettere su un'impresa, un'attività. Ma la famiglia è un'altra cosa, ci vuole un atteggiamento diverso, non si può metter su. Forse ci vuole della prepotenza? Forse se in vita mia fossi riuscito a essere prepotente ce l'avrei fatta, ma non lo sono mai stato. Anzi, sono piuttosto codardo. Certe cose le ho sempre evitate, ho sempre abbassato la cresta. Di sicuro non sono riuscito a mettere su famiglia. Finish your unhealthy breakfast, Leonard straight back to bed. Did you bring something with you today to fuck away my sore head? My first afternoon. Adoro quei libri dove non succede nulla, apparentemente non succede nulla, ma nella mente del protagonista e del coprotagonista succede e come. Beh, dopo questo incontro con questo personaggio apparentemente invadente, ma non lo è assolutamente, semplicemente una conversazione che aprirà delle porte con il protagonista che troviamo nelle pagine di Sándor Márai con questo suo secondo romanzo scritto nel 1928, un classico per un autore che già abbiamo conosciuto con diverse produzioni. Le Braci, ad esempio, è stato il lavoro per cui è più sdoganato, ma anche questo è stato considerato di notevole importanza. Tu ovviamente, Silvia, conoscevi questo autore? Dunque, io conoscevo Le Braci per un motivo molto particolare, perché un anno sono andata a Londra con una mia amica e c'era a teatro Jeremy Irons che interpretava Le Braci di Sándor Márai in una versione teatrale. E noi chiaramente abbiamo fatto carte false per trovare un biglietto per Jeremy Irons. Per Jeremy Irons, non, beh, come confesso, darvi torto. Non per Sándor Márai. Come darvi e torto. Abbiamo anche fatto, dopo la rappresentazione, la fila fuori dai camerini per avere l'autografo. Foto con dedica. E poi, siccome c'era in quel periodo, c'era lì anche mio figlio, lui ci fece un filmino. Ah. E io c'ho anche un filmino con Jeremy Irons che mi mette una mano sulla spalla. Ah, che emozione! Emozione, sì, devo dirlo. Io mi sono emozionato molto invece a proposito di Ungheria quando ho visitato la meravigliosa città di Budapest, una delle capitali europee più belle in assoluto. Il quiz è proprio questo, inerente a Budapest. Attenzione, io non è che abbia molta attenzione o una grande passione per le terme, però io vi assicuro che a Budapest ci sono delle terme che anch'io ho ceduto davanti al fascino di queste terme bellissime. Sono famosissime. Mi dite il nome delle terme che sono a Budapest? Baby, il primo amore di Sándor Márai, in questo caso il libro di cui ho appena dato breve presentazione, sarà vostro da Libreria Ubik. Qual è il nome? Come sono chiamate le terme di Budapest? Aspetto la vostra risposta al 333-180-9494. Le terme di Budapest sono molto famose. Attendo le risposte. A tra poco. We'll be right back. state rispondendo tutte e tutti, le stecni non sono queste, sono delle terme costruite a Buda e sono costruite in stile Art Nouveau, sono le più particolari, le più caratteristiche tra il 1912 e il 1918, sono state danneggiate durante la Seconda Guerra Mondiale, sono terme e bagni e fanno parte di un complesso, fanno parte di un edificio alberghiero. Queste terme sono probabilmente le più famose di Budapest, nonché tra le più belle architettonicamente, con mosaici colorati, decorazioni che sono valsi apparizione in numerose riviste, anche spot televisivi. Sì, io sono certo e sono convinto dell'esistenza di queste terme che state portando con un nome abbastanza impronunciabile, però arriva Dino dalla Bolognina che dà risposta esatta e sono le terme Gellert. E noi siamo giunti al termine. Allora Silvia, ricordando il nostro appuntamento che mi pare che sia il 2 ottobre. Sì, c'è ancora tempo. Abbiamo ancora tempo. Chi è che mi porta alle terme? Ti porto alle terme per vederti tutta Buda. Questo è Sergio che ha fatto questo simpatico calembour col quale possiamo tranquillamente concludere. Intanto grazie Sergio. Sono le 8:54 minuti. Domani invece andiamo in mostra. Tra surrealismo e l'Italia, Villa dei Capolavori, Magnani Rocca, una mostra da non perdere. Silvia, nulla da dichiarare? No. Tutto a posto. Tutto a posto. Brucio già di braci, scrive. Sempre scrive, Sergio. No, questo è Dino, che anche lui si lascia andare a queste esternazioni poetiche, che ringrazio. In questo caso non è le braci, ma è Baby, il primo amore. Adelphi, Sandor Marai, lo puoi trovare in libreria da Adelphi. Ringrazio... Da Adelphi. Tutte, da Ubic. Pubblicato da Adelphi, lo puoi ritirare alla Ubic. No, adesso andare alla Adelphi è un po' impegnativo, scusate per questo lapis o lapsus. Mercoledì prossimo torna il Voltiamo Pagina. Grazie per l'attenzione. Il Breakfast Club Mattiniere e Mattinieri ritorna domani. Ciao Silvia, buona giornata. Ciao Willy, ciao a tutte, Stefano, ciao a tutti. Ciao.